finestre, i fazzoletti come in crociera agitano saluti. L'eclissi di periferia di Max Gazzè, perché questo è l'argomento, cari ascoltatori. Tutti ne parlano, tutti le invocano, tutti dicono che bisogna modificare le periferie, bisogna migliorarle, per esempio quando ci sono le elezioni. Non c'è un candidato sindaco che non dica partiamo dalle periferie. Poi naturalmente il giorno dopo essere eletti se ne, possiamo dire una parola, se ne fottono delle periferie e fanno tutt'altro. È una storia antica, chissà perché è così, forse perché è troppo difficile modificare le periferie, migliorarle, sono nate storte, non lo so. C'è qualcuno che se ne sta occupando, è un progetto, si chiama Taking Care. Non sono sindaci, non sono politici, sono associazioni come Emergency, LUISP, Lega Ambiente, Libera e Live, e hanno messo in piedi un crowdfunding per le periferie, per migliorare le periferie. È con noi Raul Pantaleo, buongiorno. Buongiorno. Ecco, noi Raul Pantaleo, che è socio di TAM Associati, è lo studio di architettura sostenibile che sta promuovendo Taking Care insieme a queste importanti associazioni. Di cosa si tratta, Raul? Questo progetto nasce all'interno del progetto di Biennale di Venezia 2015, per cui il Padiglione Italia, la Biennale di Architettura. Abbiamo voluto dare un segno concreto della nostra azione, della nostra possibilità di agire nelle periferie, anche partendo da questo punto di partenza molto prestigioso come il Padiglione Italia della Biennale di Venezia, che aveva come tema appunto periferie. Si sta riuscendo a mettere insieme un qualche cosa di concreto, no? Noi volevamo dare un segnale di come il mondo della cultura, come il mondo della progettazione potesse fare qualcosa di concreto, e abbiamo riunito 5 grandi associazioni, si diceva prima, AID, Emergency, Lega Ambiente, Libera e WISP, mostrando il biennale, l'attività che loro fanno nelle periferie, ma soprattutto costruendo un progetto di azione sulle periferie, per cui li abbiamo fatti incrociare a 5 giovani progettisti, gli abbiamo dato un tema che era un tema concordato con le 5 associazioni, che è un'unità mobile di intervento nelle periferie. Abbiamo portato in biennale il progetto realizzato in questi mesi e nei 6 mesi di apertura del biennale raccoglieremo i fondi per poi realizzarli. Ogni associazione gestirà una di queste unità mobile? Assolutamente, lo scopo del progetto è quello di far vedere come nell'individualità delle 5 associazioni, sì, delle loro azioni già presenti, le azioni che già fanno sì, quotidianamente le periferie, farle lavorare in facciamo un esempio, non so, l'UISP che si occupa di sport, l'unità mobile dell'UISP, che cosa potrebbe fare andando in giro per le periferie? La questione è che le periferie non sono soltanto un luogo fisico, le periferie sono anche soprattutto un luogo sociale. Il degrado delle periferie non è dovuto soltanto al degrado fisico, è soprattutto dovuto al degrado sociale, per cui l'attività dello sport, lo sport per tutti, è un'attività che costituisce comunità, che costituisce reti. Con questo si inizierebbe a costruire una rete, una possibilità di costituire un diverso modo di stare insieme e soprattutto di collaborare a dei progetti concreti. Cioè, noi ci siamo agganciati alla società civile perché proveniamo da quel mondo che sta lavorando da anni sulla marginalità, e abbiamo voluto dimostrare con questo progetto come l'architettura, la buona architettura, l'architettura che si mette a servizio, possa fare la differenza. E qua arriva il progetto di crowdfunding. Voi chiedete 360.000 euro per realizzare questi 5 unità mobili che andranno in giro per le città italiane. Come si fa per darvi una mano? Abbiamo coinvolto Banca Popolare Etica, che ha costituito la rete, diciamo, dal punto di vista finanziario, e praticamente abbiamo messo insieme le 5 associazioni, insieme alla Banca Etica, che costituisce anche l'elemento di garanzia, e abbiamo attivato forse, credo, il più grande crowdfunding civico che sia mai stato fatto in Italia, per cui è una cifra importante per il panorama italiano. Vogliamo che questa sia anche una sfida nella sfida. Diamo un riferimento per chi ci sta ascoltando e vi volesse dare una mano. Allora, c'è un sito ovviamente che si chiama www.periferieinazione.it, a cui si trovano tutte le indicazioni su come donare, sul progetto, su come ci si può attivare anche a far crescere questo progetto. In bocca al lupo e grazie intanto per essere stato con noi, Raul Pantaleo. Grazie mille, grazie a voi. si può fare. Cronache da un paese migliore. Città è quella di Verbania. Salutiamo il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini. Buongiorno. Buongiorno. Eccola, eccola, il sindaco di Verbania. Buongiorno Silvia Marchionini. Complimenti. Confermati prima città per l'ecosistema urbano. Che vuol dire? Vuol dire che a Verbania la qualità della vita è ottima, le possibilità anche turistiche. Verbania fa 800.000 presenze l'anno di visitatori stranieri, noi siamo a 100 km da Milano e incuneati verso la Svizzera, per cui il Lago Maggiore di per sé ha una sua tradizione anche di ville storiche, di giardini, e il lago di per sé ha il suo fascino, per cui... Momento proloquo del sindaco di Verbania. Vabbè, è un posto bellissimo, però, intra Verbania. Però non avete vinto per questo. Io lo dico perché è nei fatti che così, notoriamente il lago... Sì, ma io lo conosco ed è un posto stupendo. Ecco, bravi. Però non avete vinto per questo, avete vinto perché c'è l'aria pulita, perché ci sono le piste ciclabili, perché? Perché soprattutto non c'è smog, e questo è un elemento di per sé molto positivo. Poi parecchie, a Verbania si gira a piedi, in bicicletta, molte aree di parco giochi, aree verdi, la montagna a due passi, c'è anche la montagna cittadina che è il Monte Rosso, e quindi c'è una fruizione del tempo libero, nuovi stili di vita che generano così anche un indotto locale tutto da valorizzare. Quanti anni ci vogliono perché questi investimenti, che sono di lungo periodo, no? Sulla raccolta dei rifiuti, sulle piste ciclabili, che però poi fruttino? Perché si ha la sensazione spesso che non si fanno queste cose perché poi non hanno un tornaconto elettorale. Ci vogliono almeno due mandati. Verbania ha iniziato dal 2000 a investire molto sulla raccolta differenziata, a organizzare al meglio il tempo libero nei percorsi cittadini e il trasporto pubblico locale. Nonostante che, bene anche dirlo, noi sulla mobilità non risultiamo al primo posto. Questa è la percezione di esigenza sentita, quindi dobbiamo lavorare molto. Ecco, non siamo seduti sugli allori, anzi, il primato va consolidato e migliorato. Bravi, comunque. Ottimo. Complimenti. Va bene, grazie. Ringraziamo moltissimo. Continuate grazie. Così. Continuate a vincere. Così, a fare da faro, a tirare la volata delle città italiane per quanto riguarda la qualità della vita. Il super capone, eccolo qua. Allora, adesso invece parliamo con l'autrice di un libro che ci è piaciuto, ci ha, diciamo, interessato. Keep Calm e smetti di fare il cafone, di Miss Caterina, un pseudonimo. Parliamo con Flavia. Buongiorno Flavia. Buongiorno a tutti. Il tuo è un libro nel quale, insomma, si recupera un po' questo tema delle buone maniere, del cercare di essere educati. Cioè, nel 2015, diciamo, possiamo aggrapparci nella società liquida di Zygmunt Bauman, dove tutto ci sfugge di mano, a queste poche certezze, per esempio che le buone maniere sono ancora importanti? Bauman direbbe le buone maniere non sono importanti ed è per questo che le dobbiamo recuperare. Proprio perché in questa società in cui tutto è così frenetico, diventare aggressivi è quasi un sinonimo di essere vincenti, recuperare la cortesia, la gentilezza, ma semplicemente il saper vivere è fondamentale, per vivere bene. Facciamo degli esempi, perché c'è l'elenco delle cose cafone, no? Noi siamo partiti con Piotta, super cafone, mangiare a bocca aperta, e vabbè, questo diciamo che è d'antica tradizione, appoggiare i piedi sul tavolo, io lo faccio ogni tanto. È veramente brutta? Non si Ma dovrebbe. Lo fai in casa quando no, sei qui da lavoro, solo? Qui al lavoro. Ah, al lavoro. Perché c'ho la scrivania, sono l'ultimo della fila. Diciamo che è una cosa che potrebbe andare su Twitter con hashtag cafonate. Ecco, appunto, cafonate, certo. Perché tu dici si può fare solo se sei un cowboy, quindi se non sei un cowboy oppure non fai. Se hai una cowgirl sulle gambe, insomma.